Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Voci da un mondo possibile, di Laura Bettini. Buongiorno gentili ascoltatori, buongiorno a tutti voi. Si può fare la pace, vedete, mi è già andata via la voce. Si può fare la pace. Forse ieri ho discusso troppo, chi lo sa, ma noi pensiamo che invece la pace si possa fare, anche se le paci sono, diciamo così, tutte diverse, no? C'è la pace tra stati, la pace sociale, la pace interiore, magari la pace tra i popoli, tra culture diverse all'interno della stessa città. Ma si può fare la pace anche tra persone, dopo un diverbio, magari anche virtuale, perché ci sono anche quelli, anzi sappiamo che sono accesissimi, e poiché sono così tutte frasi molto brevi, alla fine si trascinano per lungo tempo. Ecco, si può fare la pace dopo un diverbio su internet, ad esempio, oppure si fa la pace tra bambini, no? Fate la pace, bimbi, e poi ci si può mettere in pace con se stessi, oppure mettersi il cuore, l'anima in pace, accettarsi in qualche maniera. In russo, beh, qui la vedo già il sopracciglio che in regia si muove, in russo c'è la stessa parola per dire sia pace che mondo. Questa parola è mir, ed è chiaramente una bella ambizione. Pace e mondo si dicono allo stesso modo. Quanti tipi di pace esistono? Come si fa la pace? Da dove parte? Come ci arriviamo? Questo è il tema che vogliamo affrontare oggi. 824 0024 per i vostri interventi in diretta, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Dalle 9 ci raggiunge come sempre Marco Malvaldi. Intanto noi partiamo dalla pace nella nostra città. Con noi c'è Gianmarco Duina, dirigente della FC Sant'Ambrose. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Qui parliamo di pace attraverso lo sport, no? La vostra è una società sportiva, chiaramente milanese direi, no? Già il nome lo dichiara. Una squadra di calcio che è composta da un gruppo di rifugiati e richiedenti asilo, tesserata a FGC, siete tra le uniche in Italia, tra le pochissime, ecco, in Italia, sì, no? Sì, allora, siamo tra le poche in Italia, ma soprattutto siamo la prima a Milano. Quindi la prima squadra composta da migranti, quindi richiedenti asilo e rifugiati, la prima squadra a Milano a tesserarsi nel campionato ufficiale, quindi nella Lega FGC. E quindi da quando nasce questa squadra, cioè quanti anni ha? Diciamo, come... Allora, la squadra sì, Sant'Ambrose nasce nel 2018, quindi tra poche ore comincerà la terza stagione, nel senso che oggi è la prima giornata di campionato. Quindi chi vi trovate in campo? Chi affrontate? Alle 11 affronteremo il San Giorgio Limito di Limito di Pioltello. Quindi è proprio metropolitano, come un super derby. Sì. No, beh, sì, le squadre sono tutte squadre di Milano, dintorni. Siamo ancora in una categoria che ce lo permette. Poi vedrete se vi tocca anche le trasferte, esatto, no? Quello ce lo auguriamo, vuol dire che saremo cresciuti, sì. Quindi è un progetto che nasce ufficialmente nel 2018, ma che ha le sue radici qualche anno prima, quando comincia un po' il lavoro e l'utilizzo dello sport come strumento di inclusione e effettivamente di pace. Ma è uno strumento che vuole integrare, immagino, sia i giocatori tra di loro, sia i giocatori nella città. Sì, è inevitabile, questo è anche il significato del nostro nome, quando abbiamo deciso appunto di identificarci con il nome di Sant'Ambrose, volevamo identificarci con la città di Milano, perché appunto per noi essere milanesi significa vivere la città, significa lavorare, studiare e contribuire a portare avanti questa città come Milano, che è, come ben sappiamo, frenetica e sempre in movimento. Ecco, indipendentemente dal luogo di nascita, dal colore della pelle, dalla lingua che si parla, vivere, lavorare, contribuire appunto al movimento di Milano significa essere milanesi, e infatti noi siamo tutti milanesi. Ovviamente c'è chi è nato come me a Milano e chi come altri sono nati magari in qualche capitale africana, in qualche villaggio dell'Africa, ma oggi sono e siamo tutti milanesi. E questo quindi è uno strumento di conoscenza anche proprio della città di Milano e dei suoi, no, dei suoi ritmi, dei suoi modi, immagino anche dei giocatori che con voi fanno lo stesso campionato, quindi poi se magari ci sono amicizie si allarga un po' il raggio, no? Via via si diventa più cittadini del paese Italia. Certo, assolutamente, il calcio per noi è e rimane uno strumento, non è il fine ultimo, uno strumento appunto quello di ambientarsi in una città che sappiamo non essere facile, e quindi la puntualità, gli allenamenti diventa anche importante per un domani essere puntuali a un impegno di lavoro, o fra le decine di lingue che si parlano, in campo ne parliamo solo e sempre l'italiano, anche proprio per utilizzare questo momento di gioco anche in chiave educativa, quindi attraverso l'apprendimento della lingua italiana, per esempio. Avete mai avuto problemi in campo? Parlo proprio di razzismo, diciamolo fuori dai denti. Allora, l'abbiamo avuto, purtroppo mi sento di dire di sì, ma non è una novità, e mi ricollego insomma un po' all'introduzione che facevi, perché in realtà l'odio peggiore l'abbiamo visto sui social. E io la vedo su WhatsApp adesso, perché comunque appena uno dice la squadra di rifugiati e migranti si pensa solo a loro e non si pensa agli italiani. In realtà no, si sta pensando agli italiani, perché è un progetto di inclusione in Italia. Assolutamente, vabbè, non è una squadra solo composta da, abbiamo anche ragazzi italiani che giocano con noi, e ci sono tantissimi progetti dedicati al calcio come strumento di emancipazione anche di ragazzi italiani. Assolutamente, penso a alcuni progetti soprattutto radicati nelle periferie di Milano e via dicendo, quindi è un progetto che non guarda gli italiani come non guarda gli stranieri, è un progetto che guarda gli esseri umani, alle persone in difficoltà che hanno bisogno e che vogliono vivere lo sport in chiave aggregativa, senza guardarla a nessun tipo di differenza, quindi non è assolutamente un qualcosa che lascia indietro qualcuno o che avvantaggia di più qualcuno rispetto a qualcun altro, assolutamente no. Dicevi del fatto che sui social siete stati aggrediti, è capitato un po' a tutti quelli che si muovono sui social, con associazioni, con movimenti di qualunque genere, diciamo, però lì come reagite voi? Qual è la vostra strategia? Adesso tra poco parleremo anche con un esperto proprio di web, no? Qual è la strategia migliore? Rispondere o non rispondere? Ma allora, non sappiamo quale sia la strategia giusta. Quello che ho fatto personalmente, essendo stato gestore anche della pagina social, è stato quello effettivamente per una volta di, nonostante il mal di fegato, rispondere a tutti, perché interessava capire poi quell'odio, tra l'altro rigettato su Facebook e anche in orario abbastanza mattutino, quindi mi chiedo uno come alle 8:30 di mattina mentre beve il caffè e latte possa dire certe cose. Quindi la risposta era invitare questi odiatori a venire ai nostri allenamenti e magari a discutere delle questioni che stavano ponendo, quindi appunto come la retorica piuttosto agli italiani, piuttosto che il non dare la possibilità a determinate persone di avere determinati spazi e possibilità. Quando si invitava queste persone a venire al nostro campo a discutere con i ragazzi, con noi dirigenti, eventualmente di proposte, perché assolutamente una cosa non esclude l'altra, ecco, dalle centinaia di insulti e commenti, poi il numero di persone che si sono effettivamente presentate con un invito a discutere, insomma, è stato ovviamente zero. Ecco, ma di solito la risposta è, almeno nella nostra esperienza, la risposta è non ci penso nemmeno, cosa mi serve? Allora non è un dialogo, cioè se tu avevi voglia solo di lanciare un insulto, l'hai lanciato, vabbè, ciao. Certo, poi molti nascondono la mano, molti poi dopo magari una discussione più tra un commento e l'altro, poi si tirano anche indietro e chiamano al malinteso, al fraintendimento, quando invece gli insulti non lo erano affatto, però appunto è emblematico di quello che però, questo è un altro discorso, di quello che è il social, di quanto sia facile con un pulsante dire qualcosa che non si avrebbe mai il coraggio, e forse neanche tutto sommato la voglia, forse non ci si crede fino in fondo, può anche essere. Il confronto fisico invece in campo di solito avvicina, diciamo, riduce le distanze, questo lo sappiamo per esperienza un po' tutti, no? Poi alla fine anche il manager, che ne so io, un altro che fa un tutt'altro lavoro, si trovano insieme, giocano a calcetto e via. Certo, quello è stato subito dei nostri obiettivi principali, quindi smascherare certi pregiudizi, e chi magari arriva e scende in campo contro di noi con determinati pregiudizi, speriamo che dopo 90 minuti possa, se non aver cambiato idea, almeno messo in dubbio alcune delle cose che pensava, perché alla fine ti rendi conto che il tuo avversario è un tuo coetaneo con la stessa passione per il gioco del calcio, che è il gioco più bello del mondo, ha semplicemente un'origine diversa, che poi a conoscerla approfonditamente non è neanche così rosea magari come può essere stata la nostra di storia, quindi alla fine ci si ritrova fra amici, tra ragazzi, fra coetanei, e al terzo il gioco tempo del calcio è sì, dai, esatto, invitiamo sempre, e quindi alla fine il gioco del calcio appiattisce un po' tutte queste differenze, pregiudizi, o almeno è quello che cerchiamo di fare noi. Allora, grazie Gianmarco. Prossima partita, come abbiamo detto, oggi stesso, quindi chi ha voglia di seguire la FC Sant'Ambroise può andare. Dov'è? Dove si gioca? Siamo al centro sportivo di via Becchi 2, è proprio una traversa di Viale Monza, all'altezza della metropolitana di Gorla. Alle 11 daremo il calcio d'inizio a questa stagione, che anche per noi, per misure ovviamente di distanziamento sugli spalti e un ritardo iniziale, finalmente può parte, cominciare. Finalmente comincia. Finalmente parte. Grazie Gianmarco Duina. Grazie, abbiamo la viabilità adesso, a tra pochissimo. Parliamo appunto di haters, però non so se esiste il contrario di haters, vediamo. Si può fare. Si può fare. The World Today. Oggi parliamo di si può fare la pace. Qualcuno, ironicamente, io ho detto mirra in russo vuol dire sia pace che mondo, qualcun altro mi dice che in Puglia è vino, e quindi comunque uno strumento spesso per fare la pace. Abbiamo già introdotto il tema dell'odio sul web, abbiamo parlato un po' di haters parlando dell'FC Sant'Ambroise. Adesso abbiamo in collegamento con noi David Puente, un blogger, debunker, giornalista, scrive su Open, è un cacciatore, insomma, di fake news, notizie false che spesso guerra suscitano su internet. Buongiorno David. Buongiorno a tutti. Questa mattina sei ospite, tra l'altro, del Verde e Blu Festival con The Web Dilemma, un confronto tra i nuovi media sul tema della verità. Io ho letto verità e ho pensato pace, perché a volte la verità è anche pace, non trovi? Sì, certamente, perché una volta che abbiamo raggiunto comunque la spiegazione di un problema, di una storia e via dicendo, si arriva, di solito si dovrebbe arrivare ad un accordo, nel senso, una situazione in cui tutti quanti siamo tranquilli, abbiamo verificato quanto è realmente accaduto. Poi che ci sia una pace totale ne possiamo parlare tantissimo, infatti ne dovremo parlare anche oggi durante l'evento. Certo, è anche una verità totale, chiaramente, quella non è mai possibile, non è mai totale la verità, però ci sicuramente si possono, esatto, sicuramente si può arrivare al nocciolo su cui poi si discute. Ma assolutamente, praticamente io quando mi occupo del mio lavoro di andare a verificare le notizie e magari anche semplicemente delle immagini decontestualizzate, eccetera, c'è una verità di fondo, c'è purtroppo una bugia che è stata raccontata su quella verità, però quella verità poi a suo tempo ha molte, molte, molte sfumature da analizzare, tra cui magari c'è anche qualche piccola bugia che ha scatenato qualcos'altro. Quindi, una insomma, piccola bugia che poi scatena delle risse, è incredibile, com'è che ci lasciamo trascinare su questo? Ma siamo emotivi, cioè tutti quanti in fondo abbiamo un motivo per la quale magari indignarci, arrabbiarci, ma anche appassionarci, anche essere felici, quindi non c'è solamente la parte negativa in tutto questo, le bugie possono creare anche momenti di gioia, che poi vabbè quando scopriamo che è una bugia diventiamo un po' tristi, però basta poco, basta veramente quella piccola leva come potrebbe essere anche una vignetta che viene interpretata come razzista, per esempio, e magari non lo è, perché non si è andata fino in fondo. Un piccolo riferimento a quello che è successo appunto in questi giorni con la vignetta del libro della scuola, sì. Perché se andiamo a leggere bene quell'evento lì, ci è bastato vedere una sola immagine. Senza conoscere le 600 pagine del volume o quante sono. Esattamente, e lì capiamo che basta poco, basta un'immagine ed è finita. La bugia a volte soddisfa, diciamo, una nostra aspettativa. Cioè io penso, a LeBron James, no? O a queste di cui, ho visto le ultime di cui hai scritto. Tu ti aspetti che un certo personaggio sia in un certo modo, quella vignetta te lo dipinge così e via. Lo accetti. Cioè, ti piace, ma la bugia, come la verità, piace. Quindi se tu hai appunto un qualcosa che ti conferma una tua ideologia, una tua speranza anche, si è caduta nella trappola. Quando mi chiedono, ma Davide, come si fa per evitare di cadere in una bufala? La prima cosa da fare, che non è per niente facile, è che devi lottare contro te stesso, devi lottare contro i tuoi stessi desideri, contro i tuoi stessi piaceri, perché solo così, facendo l'autocritica, allenando lo spirito critico, puoi magari evitare di cascare in queste trappole mentali. Sicuramente quello che a me da bambina avevano regalato questo libro, che era Conta fino a 100 Laura, no? Era, ovviamente, se chiamandomi io Laura era perfetto. Sicuramente bisogna contare fino a 100 prima di mettere un like, una risposta a queste che sono queste... Sono, non lo so, sì, ti soddisfano, ti solleticano, però sono un po' assurde, come LeBron James col centrino, ecco. Pensaci se è possibile che sia successo veramente, no? Lì basterebbe anche per quanto riguarda appunto la storia del centrino, che se andate a leggere è meravigliosa, cioè, bastava anche un po' l'occhio. Sì. A volte non riusciamo neanche a vedere, cioè noi pensiamo di vedere qualcosa, ma non notiamo quel piccolo dettaglio. Era palesemente un fotomontaggio, ma palesemente, però in quel momento non ci pensiamo, perché ci piace l'immagine, ci piace l'idea, e quindi... Ma in realtà forse ci piace anche confondere la realtà con la finzione. Cioè, davanti a quella cosa che sembra un meme così, tu dici, che carina, e la mandi in giro, però non ti rendi conto che quella cosa non viene spacciata come vignetta su cui ci si ride, ma viene spacciata come notizia. Guarda, quella vignetta è nata ed è stata diffusa da un sito satirico che è una meraviglia, è una specie di lercio americano, diciamo. Il problema è che qua in Italia a volte capita che qualcuno abbia condiviso veramente le storie di Lercio come vere. Sì, e che qualcuno ci abbia creduto, certo. Sì, ma anche giornalisti, e questo è il dilemma in un certo senso, perché a volte noi pensiamo che solamente uno stupido può credere in una bufala, e no, possono crederci tutti, e questo è un altro tassello che appunto fa tanto gioco a tutto quello che è la comunicazione anche digitale. Cioè, anche una persona estremamente istruita può cadere in una trappola, dipende da che leve sono riusciti a tirare. Sì, Sì, hai ragione. Stavo pensando che però noi di queste cose ormai non faremo più a meno, quindi dobbiamo necessariamente fare attenzione. Questo poi dopo pone un grossissimo problema al giornalismo, perché viene confuso con altre realtà, diciamo, chiamiamole così. Beh, in tutta questa confusione sono nate parecchie reti, siti di informazione cosiddetta anche alternativa, che hanno comunque ingigantito magari aspetti della vita che magari non erano propriamente adatti da insomma, che hanno, diciamo, per usare un modo di dire appunto del mio editore, avvelenatore di pozzi, ecco. E il problema è che queste situazioni generano poi tutte quelle cose che vengono di conseguenza. Io penso per esempio ai QAnon, penso agli antivaccinisti, penso a un sacco di realtà che forse era meglio tenerle sotto il tappeto, ecco. Però ormai hanno platea. Adesso noi dobbiamo dare lo spazio tra pochissimo a GR24. Comunque si può fare un po' di pace sul web tenendo gli occhi aperti. Concludiamo così, David, che dici? Tenendo gli occhi aperti, un po' di prudenza. Prudenza, ma soprattutto dobbiamo lavorare su noi stessi. Se noi aspettiamo che gli altri facciano qualcosa, abbiamo già perso. Quindi iniziamo prima da noi e poi passiamo agli altri. David Puente, questa mattina al Verde Blu Festival per parlare del confronto tra nuovi media sul tema della verità. Noi continuiamo a parlare tra pochissimo invece di Si può fare la pace dopo GR24 e torniamo con un karateka, nonché ovviamente come sempre, come ogni domenica, con Marco Malvaldi. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Si può fare. Si può fare. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Ancora si può fare la pace, questo è il grande tema della nostra puntata. Si può fare la pace fuori solo quando l'avremo fatta con se stessi, ci sembra di capire, con noi stessi, ci sembra di capire dalle prime chiacchierate che abbiamo fatto. Marco Malvaldi, buongiorno. Buongiorno, io sono in pace con me stesso stamani, spero peace and di love. Andare avanti così. Peace and love and peace. Okay. Senti, io ti ho portato un ospite per farti subito felice. Un ospite al quale tu tieni tantissimo, io lo so, tieni tantissimo a lui, ma tieni tantissimo anche alla disciplina che lui esercita. E il nostro ospite è Rabia Jendoubi, karateka, 25enne, nato a Chiari, da famiglia tunisina, ormai un campione italiano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Ci fa tanto piacere, Rabia. Marco, sei contento? Bella sorpresa? Assolutamente contentissimo. Rabia è un grande sportivo e un grandissimo insegnante. Fra l'altro, questa è una delle cose veramente, veramente importanti, perché il karate è un qualcosa che migliora allenandosi non solo il karate stesso, ma anche tantissimi altri aspetti. Ecco, questa è la prima domanda, Rabia. Che cosa migliora l'allenarsi nel karate al di fuori del karate stesso? Il karate per me è un'importantissima palestra di vita, perché di fatto ti mette di fronte a diverse emozioni, a diversi ostacoli, a diverse sfide, quindi insegna principalmente a conoscere se stessi, quindi conoscere il funzionamento nostro interno, le nostre emozioni, i nostri stati d'umore. E quindi insegna poi ad affrontare queste, diciamo, turbolenze, a gestire quello che avviene internamente. Di fatto sì, è proprio una palestra di vita. Che tu hai scelto, diciamo, o ti è capitata? Ma mi è capitata, e qua devo ringraziare i miei genitori. Io da piccolino ero un ragazzino abbastanza frenetico e con tantissima energia, quindi i miei genitori ci hanno visto lungo e hanno detto: oh, ma mettiamolo in una palestra, così intanto si sfoga lì. Esatto, intanto si sfoga lì e poi impara sicuramente la disciplina e il rispetto, che sono, diciamo, i valori fondamentali che il karate insegna. Io trovo che, ecco, sia... Prego Marco. No, scusa, c'è un'altra delle cose che insegna il karate, oltre a guardare se stessi, è anche il modo giusto di guardare gli altri. Esatto. E insegna il tempismo. Ecco, una delle cose che io trovo necessarie per fare la pace è proprio capire il momento giusto per interagire con l'altro. È molto difficile imparare a guardare gli altri in modo corretto, oltre che se stessi. Esatto, sì, questo è un altro aspetto fondamentale, che deriva comunque dalla conoscenza di se stessi e dalla consapevolezza anche del mondo in cui viviamo, e quindi il come relazionarsi e insomma scegliere i giusti tempi e le giuste modalità deriva appunto dalla consapevolezza, insomma, di chi siamo noi, di dove viviamo e il contesto in cui viviamo, perché ci sono persone con tantissime sfumature diverse e con storie totalmente diverse dalla nostra, e quindi riusciamo sicuramente a essere più sensibili e, insomma, a capire quando è il momento giusto di affrontare determinate cose. Però io voglio chiederti questo, adesso questa disciplina così orientale, così sembrate tutti belli, no? Tutti d'un pezzo, ma quando tu sei andato ai mondiali, che poi hai vinto anche una medaglia di bronzo, quindi ne hai fatti di incontri, non ce l'hai paura, non ce l'hai, no? Un'ansia? Ma in realtà è un po' un falso mito quello del fatto che gli atleti non abbiano paura, anzi, noi ne abbiamo tanta e diciamo viviamo forti tensioni, forte emozioni anche negative. La differenza è che siamo abituati a gestire queste emozioni. Infatti l'aspetto fondamentale che poi di fatto mi ha regalato e ci regala lo sport di un certo livello è proprio a imparare a gestire queste emozioni. Quindi sì, paura ne abbiamo, ma di fatto l'affrontiamo e la utilizziamo a nostro favore, perché le emozioni come la paura possono avere un vantaggio enorme, ti dà poi, se affrontata nel modo migliore, una carica incredibile. E senti una cosa, Rabia, siccome il tuo sport, il nostro sport, è comunque uno sport in cui c'è un arbitro di mezzo e in cui a volte vengono prese decisioni che uno vive come ingiuste, ti è mai capitato, e come hai reagito dopo, diciamo, quella che tu hai reputato in qualche modo una sconfitta ingiusta? Cioè, quando uno subisce un'ingiustizia viene rabbia. Ecco, come si gestisce quella rabbia, questo tipo di sentimento? Sì, purtroppo il nostro sport, ma anche in generale, ci sono diverse componenti soggettive, quindi spesso l'arbitro è chiamato a prendere delle decisioni che spesso, insomma, vanno contro a quello che in realtà è giusto. E all'inizio, diciamo, come primo impatto, poi in tensione gara, in clima gara, una cosa può dar fastidio, quello sicuramente, però noi atleti siamo allenati per affrontare anche queste complicanze, anche perché nella vita in generale di ingiustizie, di imprevisti, viviamo in un caos, quindi dobbiamo abituarci a vivere nel mondo degli imprevisti, quindi di fatto in gara la chiamiamola ingiustizia, comunque l'errore arbitrale fa parte della gara. Quindi la palestra è sia sportiva che di vita, no? Quindi questo assolutamente, è. Assolutamente, in tutto per tutto, sì. Grazie Rabia, grazie molte. Rabia Gendoubi, appunto, buon proseguimento. Adesso ci sono vari obiettivi da raggiungere, ci sono anche quelli quotidiani, quindi in bocca al lupo per tutto, davvero. Grazie a voi, grazie di cuore, grazie Marco, grazie a tutti. Viabilità. Si può fare. Oh yeah! Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta. Si può fare. Muovo le ali di nuovo, riprovando a non cadere da solo nel vuoto, per cominciare a diventare così com'è, che avrei dovuto, solo se avessi comunque davvero voluto, tutte le cose che vedo, così nuove che alle volte nemmeno ci credo, ed ho paura che il calore di un raggio di sole che ho sopra la testa, sciolga le ali di cera e mi abbagli la vista, e ora non starmi a sentire, tanto guardo anche paura di farti capire, sono bene o male, solo e soltanto parole, che non cambiano il livello del mare, non scende e non sale, ma sotto qualcosa si muove, e sono tutte quelle voci che tornano nuove, e tornano più forti in un giorno come gli altri. Il nostro centralino è sempre aperto per voi, 824 0024, si può fare la pace, è il tema che stiamo affrontando oggi e lo continuiamo ad affrontare con il prossimo collegamento che ci porta molto lontano, ci porta in Terra Santa in questa domenica, dove c'è padre Ibrahim Faltas. Buongiorno padre. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Frate Francescano. Buona domenica a tutti. È vero, è giusto, è anche domenica. Frate Francescano, lui è discreto della custodia di Terra Santa, è autore tra l'altro di L'assedio della Basilica della Natività, oltre a numerosi scritti sul tema della pace. L'assedio della Basilica che tutti noi ricordiamo, 2002, ma sembra ieri, padre, non le pare ancora? Sì, 18 anni sono passati, ma la situazione rimane quasi uguale, sempre in peggio, purtroppo, non è cambiato niente, perché veramente manca la volontà del dialogo, manca azione di pace, occorrono veramente gesti di pace, pensieri di pace, azioni concrete di pace, e quello che manca qui in Terra Santa, e per questo manca la pace purtroppo fino ad oggi. Lei dice manca un po' la pace nel mondo a partire, cioè lei lo vede esemplificato proprio lì, nel luogo in cui lei vive, da qui si capisce che manca la pace lì e nel resto del mondo, perché c'è difficoltà di convivenza. Sì, quando io sono a Gerusalemme, vi parlo da Gerusalemme, dalla Casa Nuova, davanti a me tutta la città santa, tutta Gerusalemme, io sono certo che se realizziamo la pace qui a Gerusalemme sarà realizzata la pace in tutto il mondo. Diceva molto bene il Santo Giovanni Paolo II, se non sarà pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. E per questo dico, Gerusalemme è la chiave della pace, la chiave della guerra, e per questo tutto il mondo, tutta la comunità internazionale devono impegnarsi molto per realizzare questa pace qui a Gerusalemme, se vogliamo una pace in tutto il mondo. E questo è importante, Gerusalemme è una città importante, una città che è cara per tutte le tre religioni, per i cristiani, ebrei, musulmani. E deve essere Gerusalemme il modello della convivenza tra tutte le religioni, tra tutto il mondo, e questa è Gerusalemme, la città della pace, e deve essere così. Io sono sicuro, e dico sempre, ha detto il Santo Giovanni Paolo II, o tutti dicono, se facciamo la pace a Gerusalemme, io sono sicuro che sarà la pace in tutto il mondo. Padre, lei è una persona che conosce sicuramente le culture delle altre parti, lei è egiziano, frate francescano, vive a Gerusalemme, quindi ha una conoscenza profonda sia del mondo cristiano, sia del mondo musulmano, sia del mondo ebraico. Quanto è importante questa conoscenza della cultura e anche degli usi e dei costumi altrui. Si può mai arrivare alla pace se si, diciamo, ignorano le culture degli altri? Sì, io sono un frate francescano della custodia di Terra Santa che vivo qui adesso da 31 anni, anche responsabile delle scuole. La custodia di Terra Santa ha 18 scuole qui in Terra Santa, dove le nostre scuole ci sono cristiani, musulmani, ebrei. Io penso che anche quello che stiamo facendo è quello che vedo, che la scuola è una palestra importante dove crescere ed allenare i bambini al pensiero di pace. Perché nella scuola si conosce l'altro, le sue tradizioni, le sue religioni, e rispettando anche la diversità. E per questo anche le nostre scuole è veramente importante. Quelle che vengono nelle nostre scuole sono diversi dagli altri. E noi facciamo del tutto di crescere, di aiutare, di educarci alla pace, educare anche questi bambini alla pace. Questa è la nostra missione, è quello che facciamo da 8 secoli che siamo qui in Terra Santa, che siamo sempre mediatori di pace. Avete cominciato con la sede della Natività. Cosa abbiamo fatto noi francescani durante la sede della Natività? Siamo stati mediatori di pace tra i palestinesi e gli israeliani. È vero che sono stati uccisi 8 persone dentro la Basilica della Natività, ma credetemi, potevano essere tutti, che erano 240 palestinesi che sono entrati nella Basilica della Natività, potevano essere tutti uccisi, tutti morti, ma con la nostra presenza, con la nostra... Padre, immagino mediazione, no? La parola che lei stava cercando penso sia quella, ma come avete fatto a metterli insieme e farli? Li avete fatti solo parlare o c'è stato, non so, da parte vostra qualche proposta? Parlavano tramite di noi, e per questo i mediatori, parlavano e nessuno parlava con l'altro, allora noi facciamo mediatori, e parlavano dietro di noi. Se gli israeliani volevano qualsiasi cosa dai palestinesi, parlavano con noi. Io aggiungo questo messaggio ai palestinesi e viceversa, e per questo il nostro ruolo qui, la nostra missione è sempre mediatore di pace tra le due parti. Anche e sempre dico che la scuola stiamo facendo un lavoro molto importante anche per le scuole, che penso che 10.000 studenti abbiamo nei 18 scuole qui in Terra Santa, una missione molto importante, un lavoro molto importante per noi, per tutto il mondo. E noi anche, se parliamo delle scuole, da 400, noi abbiamo la prima scuola dal 1598, la prima scuola nel Medio Oriente, che è la scuola di Terra Santa di Betlemme, è nata la prima scuola del Medio Oriente. E nel nostro lavoro nelle scuole è veramente cerchiamo di educare i bambini alla pace. Ma come si educa? Marco, io scusami, intervengo, non so se tu mi senti. Sì, volevo sapere, facendo la stessa domanda. Come si insegna a un bambino la pace? Cosa gli insegnate? Basta vivere insieme, stare insieme, giocare insieme. Insegniamo anche religione musulmana, ebraica, cristiana nelle scuole. Vivere insieme, crescere insieme, conoscere l'altro, le diversità, conoscendo anche le culture, le religioni, questo è importante. E anche noi facciamo anche progetti di pace, ogni anno portiamo palestinesi e israeliani. Quando dico palestinesi e israeliani, dico ebrei, cristiani, musulmani, e ogni anno portiamo un gruppo universitario di giovani universitari al Giappone, nella memoria di Hiroshima 6 di agosto, anche a Nagasaki il 9 di agosto. Ogni anno andiamo, portiamo ragazzi per stare insieme, per vivere insieme. Anche abbiamo il progetto dello sport, il calcio. Questo è anche importante, di stare insieme, palestinesi e israeliani. Tutto questo aiuta a educare questi bambini alla pace. E secondo il livello della politica non si può fare queste iniziative, ma noi stiamo facendo anche questo momento così difficile, che non esiste il dialogo tra palestinesi e israeliani, noi stiamo facendo queste iniziative. Ogni anno anche andiamo a Verona con i bambini cristiani, musulmani, ebrei a fare un campus a Verona, anche con i giovani universitari al Giappone. Questi, parliamo anche del progetto Giorgio La Fira, che portiamo anche ragazzi palestinesi, israeliani, ebrei. E questo molto difficile farli incontrare qui in Terra Santa o a Gerusalemme, in tutta la Terra Santa, ma portiamo questi fuori per dialogare, per stare insieme. Per cui lei mi dice insieme, padre, per fare la pace bisogna anche conoscere di persona, quindi uscire dai propri confini, dai propri schemi, andare, come dice lei, in Giappone o a Verona o nella città vicina per vedere le cose. Certo, il primo momento veramente è molto difficile, uno si incontra l'altro e poi quando passa un giorno, qualche ore, credetemi che diventano amici. Questi progetti anche facciamo con altre nazioni e quelli che vanno d'accordo molto di più sono palestinesi e israeliani, perché la stessa cultura, quasi la stessa lingua, tutti parlano ebraico, anche arabo e veramente... e diventano amici. Quando tornano, se anche all'aeroporto vogliono fare qualsiasi problema, quelli dell'aeroporto, ai palestinesi, gli israeliani difendono i palestinesi, dicono che questi sono stati con noi, siamo stati sempre insieme. E questo è bello. E poi quando tornano qui e continuano i contatti, continuano a visitare uno l'altro, che questo anche è impossibile nella vita normale adesso. Non si può immaginare che uno israeliano può venire a Gerusalemme, nella città Gerusalemme Est, a visitare un palestinese, o va anche a Betlemme o va così, ma lo fanno perché sono convinti, sono diventati amici. E questa iniziativa veramente è vero che è molto, ci vogliono molto tempo, ma almeno abbiamo iniziato e contatti ci sono. Non dico migliaia, ma centinaia di amicizie sono nati di questi progetti, sia dello sport, sia di Hiroshima, sia di educare la pace in tantissimi viaggi insieme che facciamo per palestinesi e israeliani, oltre anche nelle scuole potete vedere il clima della scuola quando tutti stanno insieme, musulmani, cristiani, anche ebrei. Delle volte anche troviamo difficoltà di realizzare queste cose e qui quando vogliamo veramente stare insieme una settimana, 10 giorni, ma fuori in Italia, in Giappone, anche in America funziona molto bene. Grazie padre, la ringraziamo davvero tanto per tutti questi suoi racconti e appunto anche per averci dato degli strumenti, diciamo, per educare alla pace e far capire come davvero si possa raggiungere l'obiettivo della conoscenza e quindi da lì partire per l'obiettivo della pace. Buona giornata, buona domenica padre. Buona giornata anche a voi e speriamo e preghiamo per la pace per tutto il mondo. A risentirci. Per tutto il mondo. E anche per Gerusalemme, certo, a partire da Gerusalemme verso il mondo. Marco, tra pochissimo torniamo per parlare di pace con se stessi, col proprio corpo. È proprio così impossibile farlo? Sentiamo. Si può fare. Può fare. We'll be right back. 349-238-6666 per i vostri messaggi, WhatsApp ed SMS. Abbiamo parlato anche di mediazione in parte con padre Faltas, come ci aveva suggerito un ascoltatore che diceva: se parlate di pace, parlate necessariamente anche di mediazione. Ho sentito uno strano rumore, non so se Marco Malvaldi è ancora in collegamento con noi. Oggi c'è qualche forse difetto, non so che cosa, ma in ogni modo sicuramente noi proseguiamo con l'affrontare questo tema del si può fare pace. Ne abbiamo parlato in una dimensione internazionale, di religioni, di popoli. Fino adesso abbiamo parlato di pace urbana, abbiamo capito che insomma per fare la pace fuori serve la pace comunque con se stessi. Adesso arriviamo proprio a questa pace più individuale con Costanza Rizzacasa d'Orsogna. Buongiorno. Buongiorno. Collega del Corriere della Sera, autrice tra l'altro di Non superare le dosi consigliate, un libro che sul difficile rapporto col corpo in generale, al di là delle dimensioni fisiche, ma è la difficile relazione con se stessi, comunque siamo, direi, Costanza. Sì, col proprio corpo, certo, con se stessi e poi con gli altri. Cosa volete che parli? È una domanda? No, però volevo che tu mi confortassi in questo, nel senso che c'è la questione specifica dell'essere più o meno voluminosi, grassi, sì, magri. Adesso non so più che parole usare, perché ho paura, Costanza, di ferire qualcuno, che poi diventa anche quello, no, un problema. Non si è più in pace perché non si sa cosa dire. Esatto, ne avevamo parlato. Allora, diciamo così, il mio libro è un romanzo su i disturbi alimentari e poi l'obesità data appunto da uno di questi disturbi alimentari, che è le abbuffate incontrollate. Quindi è una storia per tutta la vita di questa protagonista di tentativo di accettazione col proprio corpo, mentre invece tutti attorno a te, a cominciare dalla tua famiglia, più o meno ti tirano le pietre, ecco. Questo è quello che succede. Guarda, mi faceva proprio riflettere, nei mesi scorsi Harvard ha aggiornato uno studio importante di qualche tempo fa sul pregiudizio implicito, analizzando 6 indicatori che sono l'orientamento sessuale, la razza, il colore della pelle, l'età, la disabilità e il peso. Ecco, mentre l'ultima volta, un paio d'anni fa, quando avevamo fatto questo studio, tutti gli indicatori erano diminuiti o leggermente diminuiti o rimasti uguali nei confronti di tutte le altre categorie, tranne quella verso le persone grasse, che era aumentata del 15% invece il pregiudizio. Del 15%? Del 15%, aspetta, ma adesso hanno visto che in 13 anni il pregiudizio contro le persone grasse, mentre tutte le altre categorie sono diminuite o rimaste uguali, il pregiudizio invece è aumentato del 40%. Quindi è vero, cioè c'è proprio un'emergenza dell'accettazione del corpo altrui. E poi a cascata che provoca, questo determina una mancata accettazione del proprio corpo, ricordiamo, ma poi non è neanche ecco, se prendiamo per esempio Matilde, la bambina protagonista del mio romanzo, cui la mamma da quando è piccolina le dà i lassativi pensando che la facciano dimagrire, no? Ecco, se Matilde si fosse trovata in una situazione da bambina, come tanti bambini, di accettazione di una famiglia, di persone intorno che non la facessero sentire ostracizzata, emarginata, diversa, anormale, mostro, ecco, tante cose non succederebbero. La storia di Matilde è una di abbuffate di lassativi per tutta la vita, che poi sono conseguenze di problemi di salute, che poi sono conseguenze di tirarsi fuori dalla vita e non avere relazioni, non avere una vita normale. Ecco, a cascata vengono poi dalla non accettazione tutti questi problemi. Ecco, Costanza, però una cosa, quale meccanismo crea disagio col corpo degli altri? Perché se ci andiamo un attimino a riflettere, il mio corpo è una questione che riguarda me. Qual è, secondo te, che insomma, questa cosa l'hai studiata tanto, qual è il meccanismo secondo cui il corpo dell'altro crea un problema a me? Allora, infatti non crea un problema a te, solo che ecco, questi due studiosi, per quanto riguarda la grassezza, poi io credo che ci siano altre cose. Per esempio, questo studio nella sua comunque importanza non esamina l'identità di genere. L'identità di genere è il senso di appartenenza di una persona a un genere è diverso chiaramente dall'orientamento sessuale, e io credo che tantissimi episodi di ostracismo, di non accettazione, si vedano per esempio in questi giorni anche in Italia verso le persone trans. Abbiamo visto per esempio come tanti giornali hanno accolto l'episodio di Maria Paola Gaglione e Ciro, alcuni l'hanno addirittura chiamata Cira, perché dicevano che lei era una donna, anche se poi lei si identificava nel genere maschile, quindi voleva essere chiamato Ciro, e alcuni l'hanno proprio invece detto no, lei è Cira. Quindi io credo che vada, che ci siano altre categorie. Ora chiaramente qui analizzava, prendeva in considerazione quello delle persone grasse, e lì ci sono due, diciamo, cose che hanno cambiato la percezione, soprattutto negli Stati Uniti per esempio. Chiaramente c'è questa cosa che si chiama epidemia di obesità, che poi in realtà altri studi hanno provato che è un vero motore del fat shaming, della discriminazione verso le persone grasse, e quindi poi cioè dell'obesità. La paura di diventare paura, grassi, esatto, a propria volta. Negli ultimi diciamo 20 anni ci sono stati tutta una serie di allarmi sui pericoli dell'obesità, siamo bombardati veramente da studi, e chiaramente questo non vuol dire che noi dobbiamo sottovalutare il problema, ci sono ricadute di tutti i tipi. Per esempio adesso l'altro giorno c'era questo studio che diceva come l'obesità grave può contribuire a malattie come l'Alzheimer, la demenza senile precoce, eccetera. Quindi noi non dobbiamo, però è certo, ma un conto è la ricerca e un conto è fare c'è stato un allarmismo enorme. E poi c'è anche un altro discorso, diciamolo, mentre cose come la razza, il colore della pelle, l'età, la disabilità, tu non ci puoi fare nulla perché tu sei nato così, verso le persone grasse c'è un discorso della colpa, è colpa tua se sei così, perché sei pigro, perché non ti muovi, perché stramangi, hai tutte queste cose negative, alla grassezza vengono sempre appizzicate tutti questi vizi, è una cosa che ci portiamo dietro un po' dagli anni 70, no? Quando esatto, però che lì era una controriforma rispetto a quello che era precedentemente, cioè essere grassi era bello, nel senso era sano, ma era ricco, era in parte, no? No, dici era di no. Più accettato, non è vero che era bello. C'è un libro che sta uscendo in Italia, Grassi, di cui ho fatto la prefazione, di uno storico americano, che appunto fa notare come quando noi diciamo sempre nell'antichità, prima essere grassi era bello, era voluttuoso, era questo, era quello, in realtà non è proprio così. C'è sempre stato uno stigma appiccicato alle persone grasse, che era uno stigma relativo all'indolenza, eccetera. Abbiamo sempre avuto un problema con le persone grasse. Poi chiaramente dagli anni 70 in poi tutta questa cosa col culto del corpo, il culto dei muscoli, il avere questo corpo che è diventato macchina, che deve sostenere le pressioni lavorative 24 ore al giorno, insomma, un che po' deve robotico sempre di più, un po' robotico. Ecco, da quando c'è questa cosa, chiaramente mentre prima diciamo che a fase alterne nella storia un po' di pregiudizio c'è sempre stato, anche accanto a una certa maggiore benevolenza, anzi per esempio adesso oggi non è capitato anche a voi, oggi ci meravigliamo quando c'è una persona grassa nelle serie televisive, diciamo ma che cosa grandiosa, ma invece per esempio c'era Roseanne negli anni 80 e lei era tantissime altre cose oltre che grassa, era questa donna della classe operaia americana dove in realtà essere grassa era una delle tante cose che aveva ed era una cosa molto normale. Ecco, invece oggi abbiamo bisogno di includere un personaggio sovrappeso, sembra questa cosa miracolosa, oddio, e poi però sono invece stigmatizzati al contrario, nel senso che ci sono, però parlano sempre del loro peso come se non avessero un'altra dimensione, ecco, come se non avessero altri interessi. Di fissa c'era una serie di questo tipo, c'era questa, in realtà era una serie importante perché aveva come protagonista una grande obesa, però purtroppo lei era solo preoccupata del suo peso, non aveva altre cose che le riempissero la vita, almeno all'inizio, mentre invece prima era più, anche nelle serie TV lo vedevamo, come il grasso era più accettato. Ecco, stiamo facendo un'evoluzione verso la non accettazione del grasso. Allora, ecco, Costanza, una cosa, scusi. No, volevo solo avvisarvi, avete un minuto per il controinterrogatorio. per il, una cosa sola, a me ha colpito questo. Dalla fine del libro tu dici che tutte le vite sono eccessive, ma alcune persone lasciano vedere gli eccessi, altre no. Ecco, qual è il fatto è che una persona grassa è visibile in quello che è il proprio eccesso, mentre altri eccessi non li vediamo. È questa la fregatura in questo senso, secondo te? Questo è vero, tu puoi vedere un abuso di altre cose. Ora, chiaramente qui non si condanna nulla, il punto è proprio non condannare nulla e accettare sempre il diverso, accettare sempre l'altro. Però è chiaro che la grassezza, l'obesità grave è una cosa che non possiamo nascondere. Io poco fa facevo riferimento a tutti questi servizi, articoli, studi. Hai presente quando i telegiornali fanno tutti questi servizi sulle persone grasse e ci sono queste persone grasse, per esempio americane, che girano per strada e hanno sempre la testa tagliata. C'è una deumanizzazione della persona e allo stesso tempo questa persona è lì e questo corpo grasso, e nel frattempo ti stanno bombardando di tutte le cose che possono succedere se diventi come quello. Quindi poi alla fine questa discriminazione non fa altro che spingere queste persone che prima si sentivano più accettate o quantomeno uscivano di casa, avevano la loro vita. Ecco, adesso che il pregiudizio è sempre maggiore, queste persone si ritirano piano piano dalla vita e si chiudono in casa. In casa invece tutto peggiora. Perché a quel punto sei da solo. Ti senti doppiamente ferito e sei doppiamente in pericolo. Grazie a Costanza Rizzacasa d'Orsogna, sempre un piacere parlare con te. Abbiamo la viabilità, torniamo tra poco e questa volta di pace interiore parleremo con qualcuno che, vabbè, vedrete. Si può fare. Si può fare. No more trouble, basta problemi, basta. Sentiamo un po' Carla da Brugherio, come faceva la pace lei, buongiorno. Oh, buongiorno, come facevo la pace? Diciamo, negli anni 50 del secolo scorso, quando facevo la prima e seconda elementare in un paesino della Val di Susa, e noi bambine, specialmente le bambine, perché i maschietti si arrangiavano, facevano altre cose per far la pace, ma noi, siccome c'era il Chicles, la gomma americana, che era una novità, no? Era un quadrettino rosa, buonissimo all'inizio, poi dopo, comunque ci si avvicinava alla bambina con la quale avevamo un po' bisticciato, senti, se fai la pace con me, ti do un pezzo di Chicles. E quella faceva la pace subito. Il Chicles, grazie molte Carla. La cingomma si diceva anche in Toscana, vero Marco? La cingomma, assolutamente. Siamo disponibili. Noi invece quando per fare la pace al liceo si chiedeva un tiro di sigaretta, quindi mi fai fare un peo o mi fai fare un tiro e pace la sigaretta fatta. Era bene, preziosissimo. Il calumè della pace. Non so, Stefano Bettera invece adesso è responsabile comunicazione dell'Unione Buddisti Italiana, ma come faceva la pace a scuola, magari ce lo dice? Ma intanto buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. Ma si faceva la pace molto banalmente andando a giocare a pallone insieme, ecco, oppure uscendo la sera a bere qualcosa, tutti quanti, insomma, diciamo che qualunque rito sociale aiutasse la pace era benvenuto. Il calcio soprattutto, da buon maschietto, ovviamente. Come diceva la signora Carla, i maschietti avevano altri strumenti, le femminucce invece con la scingomma, il cicles. Allora, adesso venendo invece un po' più a te, noi ci conosciamo dai tempi in cui tu facevi un altro lavoro con Legambiente. Assolutamente. E quindi ecco perché ci diamo del tu. Comunque adesso appunto la tua vita è dedicata alla Unione Buddista Italiana. Assolutamente. Il tuo percorso è stato anche il percorso di una ricerca di pace interiore? Ma sì, guarda, assolutamente sì, perché allora intanto voglio dire il percorso buddista di fatto è un percorso di pace, anche se mi piace usare questo termine in modo non banale, perché spesso si tende a renderlo un pochino, come dire, romantico, no? Per cui sì, la pace, l'equilibrio, la serenità, che sono ovviamente tutte cose molto vere che derivano da questo percorso, però di fatto questo è in realtà un cammino di riscoperta di se stessi, anche un cammino, diciamo così, di autenticità. Quindi nella riscoperta dei valori più profondi che abbiamo, chiaramente si spera, ecco, diciamo così, che una pace interiore sia uno di questi. Non è sempre così scontato, il risultato non è scritto nella ricetta iniziale, diciamo, per usare un po' di ironia, ecco. Ecco, appunto, ma Bettera, una delle ricette del buddismo è la meditazione, l'acquisizione della consapevolezza attraverso la meditazione. E noi siamo abituati a associare la meditazione come qualcosa di passivo, di tranquillo. Dice, invece, per meditare ci vuole una notevole grinta. Quando uno si mette a meditare, ecco, succedono cose inaspettate. E noi abbiamo un'idea un pochino sbagliata di cosa vuol dire meditare spesso. Sì, perché guarda, c'è un'idea della meditazione che ovviamente deriva un po' così da un luogo comune che noi tutti abbiamo sull'Oriente, no? Per cui si pensa che gli orientali siano tutti... intanto si pensa che il buddismo sia soltanto un fenomeno orientale, cosa che non è affatto vera, perché i buddisti e comunque le persone che meditano, che si dedicano a qualche disciplina spirituale in Occidente ormai sono una realtà, cioè cominciano a essere qualche milione di persone in Occidente, per cui insomma non stiamo più parlando di un fenomeno di importazione, prima cosa. E secondo, appunto, però c'è ancora questo luogo comune che lega la meditazione, le discipline spirituali, un po' questa immagine del guru che vola sui tetti su un tappeto magico, ottiene realizzazione sotto una cascata. Esattamente, no? Cioè, in realtà, come dicevo prima, il percorso di consapevolezza e quindi la meditazione è la porta per questo percorso, o meglio, è una delle porte di questo percorso di consapevolezza, ti porta in realtà a vivere in modo un po' più autentico. Io nell'ultimo libro che ho scritto ho dato un titolo un po' provocatorio, che il Buddha era una persona concreta, proprio in questo senso, cioè non immaginiamoci di iniziare un percorso che ci porta a diventare dei santoni, semmai al contrario diventiamo molto più simili a quello che siamo davvero, cioè andiamo a riscoprire le nostre radici, ecco, e quindi anche le nostre radici occidentali da questo punto di vista. Che sono un po' più mentaliste, dicono, cioè noi siamo un po' più incapaci anche forse di fare quel tipo di meditazione che abbiamo in mente, appunto del santone, così, siamo forse sempre un po' ansiosi, sempre un po' attivi, lo rivedi anche tu nella tua esperienza? Ma sì, ma allora guarda, ti dico, allora questo peraltro è un altro luogo comune, cioè nel senso si pensa che la meditazione e comunque la pratica sia qualcosa che ci allontana dai pensieri, oppure come dire, con una gomma da cancellare entra nella nostra mente e la rende perfettamente limpida, perfettamente pura. Questo può succedere durante la meditazione, soprattutto nel momento in cui si è in uno stato di meditazione molto profonda, però di fatto la nostra mente funziona così, cioè è impossibile cliccare sul bottoncino e spegnerla. Il punto è un altro invece, cioè è diventare consapevoli di quello che accade nella nostra mente, per cui anche dei meccanismi di ansia, di volontà di controllo, di bisogno di affermazione, eccetera, eccetera, eccetera, e invece che lasciarsi trascinare da questi meccanismi, si impara a rispondere, anche con un po' di ironia, se vogliamo, a quello che la nostra mente ci vorrebbe far fare, e in realtà si ritorna un po' a un punto, come dire, un po' più centrale, un po' più equilibrato, e da quella prospettiva si risponde a ciò che accade nella vita in modo un po' diverso. Questo è il processo trasformativo della meditazione. Quindi sì, è vero che noi occidentali siamo forse, per nostra tradizione culturale, filosofica, eccetera, portati più al ragionamento, però non è che gli orientali smettano di pensare, cioè non voglio no, dire... No, però forse sono un po' più capaci di staccare, di schiacciare un pochino quel bottoncino, non lo so, anche lì è una questione di cultura e formazione. Stefano, ci dobbiamo salutare, ma ti ringraziamo molto anche per i libri che hai portato ultimamente nelle librerie, tra quali io ricordo Il Buddha era una persona concreta, un titolo che mi è sempre piaciuto moltissimo. Grazie mille. Allora Marco, ci salutiamo anche con te, ma ci ritroviamo la prossima settimana, Marco Malvaldi. Volentieri, assolutamente, e accendiamo appunto il cruscotto della consapevolezza per andare incontro a una vita più controllata, più pacifica. Per fare pace, abbiamo appreso, bisogna conoscere, bisogna studiare, bisogna imparare a controllare la paura, l'aggressività, bisogna far pace dentro se stessi. Qualcun altro ci ha scritto che non c'è pace senza giustizia. Sicuramente per fare pace bisogna comunque pensare. Io voglio ringraziare oggi in assistenza Jacopo De Franchi, in regia c'è Filippo Aureggi, come sempre per questa puntata Edoardo Lavezzari, Michele Michelazzo che ne è l'autore di Si può fare. Adesso da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto, ci ritroviamo sabato prossimo. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.